due riviste, l'una accanto all'altra sul tavolino di vetro di una sala d'attesa. Stesso formato, stessa carta patinata e, come scoprirò poi, stesso editore, anche se questa probabilmente è una coincidenza. Meno casuale forse il fatto che le due copertine tocchino, per così dire, la stessa area tematica. Il magazine del Corriere della Sera numero 43 del 27/10/2005 esibisce sotto l'immagine dello scrittore Tom Wolfe, un po' ridicolo nella sua uniforme di gentiluomo del sud in completo bianco con feltro in tinta, una scritta che afferma minacciosamente che la rivoluzione sessuale è finita. Invece, oggi numero 42 del 19 ultimo scorso, mette in copertina un signore di mezza età con la faccia furba, una fascia tricolore come quella dei sindaci in vita e quattro belle ragazze con la coroncina da reginetta attorno, e ne anticipa, nello strillo di copertina, un irresistibile memoriale il cui contenuto sintetizza in un plateale: ho amato 600 donne, ora ho soltanto una moglie e un amante. A chi come me siede in quella sala non è dato capire dall'interazione dei due messaggi se la rivoluzione sessuale sia finita o meno. In ogni caso io tendo la mano verso il magazine, perché del numero delle donne amate da un tipo con quella faccia non me ne importa poi molto. E Tom Wolfe, quali che siano le sue mente sartoriali, è comunque uno scrittore importante, il Falò delle Vanità è un libro divertente, e le sue opinioni meritano di essere conosciute. Ma ahimè, il servizio all'interno non riferisce opinioni di sorta. È solo un'elegante marchetta, come si dice, e se preferite un frutto di sinergie editoriali, forse è meglio, è volto a promuovere l'ultimo romanzo del vecchio Dandy, di prossima comparsa in libreria. Par di capire che in tale opera di narrativa, che è ambientata in una prestigiosa università americana, che in tale opera di narrativa della puntuale rappresentazione di sfrenatezze sessuali di ogni tipo non si faccia affatto risparmio. Ma il punto di vista critico dell'autore, in compenso, è incarnato da una protagonista che almeno nelle prime pagine è vergine e alla fine si scopre insoddisfatta del come ha smesso di esserlo. Per cui, visto che di storie del genere, per quel che io ricordo, se ne scrivono e pubblicano almeno da 80 anni, 60 via, con maggiore o minor successo di scandalo, ma sempre con esiti letterari lontani dal premio Nobel, decido che non è il caso di perdere tempo con un servizio giornalistico in merito e che sarà forse meglio provare con l'altra rivista. Di diverso spessore, in effetti, il memoriale dell'ometto con la faccia furba. E costui sembra un ex cantante di qualche fama, oggi riciclato come conduttore televisivo di successo. E della sua condizione di bigamo conclamato non ha mai fatto mistero. La considera semmai piuttosto restrittiva. In fondo, dice, anche se non gli piace fare i conti, in vita sua è stato, come si dice, all'incirca con 600 ragazze come da copertina. E per lui le donne e anche il gioco d'azzardo sono sempre state il punto debole. Ma dell'uno si è liberato mettendosi in autoterapia, che deve essere l'equivalente medico di quell'autosospensione tanto cara ai nostri politici quando li colgono con le mani nel sacco, no? E le seconde è riuscito a ridurle drasticamente a due. Oggi ha solo due amori di tipo ufficiale: la moglie, da cui ha avuto due figlie, e la compagna, che per semplicità gli fa anche da manager. Recentemente hanno festeggiato tutti insieme in allegria i suoi 50 anni. E entrambe le signore, virgolette, hanno vissuto praticamente insieme per due settimane a organizzare in dettagli la grande festa. Insieme mi hanno fatto un regalo, un orologio prezioso. Insieme hanno confezionato la torta, una mille foglie gigante da leccarsi i baffi. Non va sempre così. Certo, quella è un'occasione particolare, ma è un menage che in ogni modo funziona abbastanza bene. D'altronde, commenta lui, e non c'è niente di straordinario, è una cosa che fanno in tanti, ma quelli la vivono di soppiatto, e lui invece la porta alla luce del sole. Mo. Io personalmente non ho nulla contro la bigamia, vi assicuro, purché tra consenzienti. E quanto alle 600 ragazze, vista l'età del soggetto, vanno spalmate su almeno 34 anni di vita sessuale attiva, che facendo i calcoli fa poco meno di uno ogni 3 settimane. Niente che non possa figurare nel palmarès di un qualsiasi scapolo di medio calibro attivo nel mondo dello spettacolo. Ma anche se si può fare di meglio, l'exploit resta discreto, e tenendo conto che il tipo, sempre per motivi d'età, deve essere stato educato in un'etica sessuale non diversissima da quella imperante ai tempi miei, si può persino considerare la sua testimonianza una prova del fatto che a scorno di Tom Wolfe la rivoluzione sessuale finita ancora non è. È possibile, eh? Eppure, non trovate un po' triste anche voi quella scena della moglie e dell'amante che fanno insieme la mille foglie di compleanno? Ed è piuttosto triste, vi assicuro, tutto il quadro che l'individuo tratteggia della sua vita. È una specie di gineceo allargato di moglie, amante, madre, figlia e sorella, in cui può capitare che una domenica tutti sono seduti a tavola e al dolce il capofamiglia, cioè lui, si alza per annunciare pimpante d'avere un'altra figlia segreta. E più che un'immagine di sessualità liberata, sembra quella di un'istituzione concentrazionaria, in cui è difficile che chiunque, maschio o femmina, possa intrattenere dei rapporti appaganti con chiunque altro. Ma tanto si capisce benissimo che il problema non è questo. È fin troppo chiaro che il tipo esibisce scientemente questa immagine a prescindere da ogni considerazione di valore e credibilità, perché è a essa che affida le sue chance di restare a galla nel difficile mondo in cui opera. Perché io non saprei dirvi nulla delle sue doti di cantante o di intrattenitore, ma non mi risulta che siano considerate eccelse, tali da assicurargli comunque automaticamente fama, notorietà e ingaggi. E in questi casi notoriamente un aiutino serve sempre. Per cui una nomea di bigamo manifesto, di ex giocatore assatanato, di amatore di lungo corso, per quanto culturalmente un poco stereotipata, o forse anche per questo, proprio per questo, può sempre tornare buona. Tanto, diciamocelo, queste affermazioni oggi come oggi non le va a controllare nessuno. E comunque la RAI, invece di licenziare in tronco chi se ne ammanta come sarebbe successo ai bei tempi, gli organizza delle serate speciali piene di belle figliuole, come le 4 finaliste di Miss Italia che compaiono nella foto in copertina. Il tutto aumenta ancora di più la tristezza. Ma è ancora più triste, per stringere, che un anziano scrittore di successo di 74 anni decida di riproporci nell'ansiosa ricerca del bestseller l'ennesima variante di una storia con cui le varie François Sagan e Pamela Moore, per citare due nomi a caso dei miei tempi, ci hanno afflitto per anni, per decenni. Una storia in cui la deprecazione moralistica del sesso libero, dopo il quale in quei romanzi lì la ragazza non si sente mai tanto bene, funge di solito da pretesto per ammannircene, sotto forma di descrizione, una quantità industriale, cosa che, rivoluzione o no, giova sempre alle vendite. Perché c'è chi millanta sesso per vendere la propria immagine e chi ne scrive per vendere più copie. Ma di vendere, ahimè, sempre si tratta. E visto che la rivoluzione sessuale del secolo scorso, come l'avevano sognata i Lawrence e i Reich, o la generazione perduta degli anni 30, o i ribelli degli anni 60, consisteva esattamente nel tentativo di liberare la sessualità da ogni carattere di merce di scambio ineguale, per affermarne l'assoluta e paritaria autonomia liberatoria, dubito che la si possa davvero considerare finita. È molto più verosimile che debba ancora cominciare.